successo pure a te sicuramente di ritrovarti affaccendata in un trasloco che era iniziato forse superficialmente, che immancabilmente poi si è complicato poco a poco. Avrai raccolto qualche foto spensieratamente, assecondandone il ricordo come fosse un gioco, per ritrovarti persa disperatamente a maledire sia la foto sia il trasloco. Ci sono scatole che sembra si rifiutino tenere anche lo stretto necessario, e l'inventario che credevi facilissimo ora è un calvario e mette in crisi sia l'umore e sia lo scopo. Quindi perdona, ancora non so quando mi piazzo, telefonerò. Per adesso forse piango ancora un po'. Chi parte crede che basti lo scotch, ma non chiude un granché, no. Magari provi in America, non so. I'm gonna change my world. So here is your picture, take it away. I might be happy someday. Just in case you come around, I'm gonna change the sound. I'm gonna change the sound. Che cosa vi posso dire? Traslocare è un po' come morire, sperando di tornare a campare. Qualcosa volutamente da dimenticare, qualcosa da comprare, pensando a chi potrebbe piacere. Non ne possiamo parlare, bisognerebbe prima finire, portare, contare, sistemare. Piantare alberi in una stanza, smuovere l'aria con il vento dell'estate. Vi prego amici, rimanete, anche se non so dove vi sedete. Sì, chiudi. Chiudi una volta per tutte. Che brutta storia, caro amico. Brutta letterariamente, intendo. A metà strada tra il drammone alla Giacometti, quello della morte civile, e certe situazioni pirandelliane. Sì, ma allora perché hai voluto venire qua? Beh, sono venuto d'impulso. Qua, a conti fatti, ho passato il meglio della mia esistenza e solo perché non avevo ancora la cognizione del dolore. Non è poco, sa, Nella mia solitudine di Chicago, Vigata ha cominciato a brillare come una stella, ma già appena messo piede in paese l'illusione è svanita. Era un miraggio. Dei vecchi compagni di scuola non ne ho trovato uno. Nemmeno la casa dove ho abitato esiste più. Ora c'è un palazzone di 10 piani e le 3 stazioni si sono ridotte a una sola, con poco o niente traffico. Poi ho scoperto che figuravo nella lapide del monumento ai caduti. Sono andato all'anagrafe. C'è stato evidentemente un errore da parte del comando militare. Mi hanno dato per morto. Mi scusi la domanda, ma lei a leggere il suo nome, che ha provato? Rimpianto. Di che? Che le cose non siano andate come c'è scritto sulla lapide. Invece ho dovuto vivere.